L'ipotesi più accreditata è quella della vendetta trasversale, ma non si esclude che dopo gli arresti e i sequestri degli ultimi giorni i casalesi abbiano voluto lanciare un segnale di forza allo Stato. I killer hanno agito in pieno giorno all'interno di un circolo ricreativo. La vittima, Stanislao Cantelli, stava giocando a carte con gli amici quando è stata raggiunta da una raffica di proiettili di grosso calibro. L'uomo era pensionato e incensurato, ma era lo zio di due collaboratori di giustizia, i fratelli Luigi e Alfonso Diana, che con le loro rivelazioni hanno contribuito all'emissione delle 107 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di capi e gregari dell'organizzazione. I carabinieri hanno avviato le indagini ed effettuato i primi interrogatori, infruttuosi i posti di blocco istituiti. Il delitto è avvenuto davanti a numerose persone nel centro di Casal di Principe, proprio mentre in tutta la zona erano al lavoro da 24 ore anche i 500 parà della Folgore inviati dal governo. Enzo Danna, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli.